Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Turchia con Marta Ottaviani. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Entrare in un bar e ordinare semplicemente un caffè non ha più lo stesso significato dopo che un giorno sulla mia bustina di zucchero mi sono trovata la scritta «Smetti di partire e arriverai». C'è però da dire che è cominciata proprio in quel momento la voglia di fare un nuovo viaggio, quello in compagnia degli scrittori che hanno raccontato e vissuto un paese, una città, un luogo particolare. Del resto, leggere un libro è un po' come partire, e viceversa, chi parte spesso cerca il libro che gli farà compagnia durante il viaggio. Come l'estate scorsa, in occasione del ponte del 2 giugno, quando ho deciso di andare a Istanbul e sono andata nella mia solita libreria, volevo qualcosa sulla Turchia. Nome: Turchia. Capitale: Ankara. Confini: la maggior parte della Turchia è situata in Asia e confina a est con la Georgia, l'Armenia, la Repubblica Autonoma di Nakhchivan e l'Iran, a sud-est con l'Iraq e la Siria. La parte europea del paese confina a ovest con la Grecia e la Bulgaria. Ha un lungo e articolato confine marittimo nel Mar Egeo. Il Mar Nero la separa dalla Romania, dall'Ucraina e dalla Russia. Un lungo braccio di mare del Mediterraneo la separa dall'isola di Cipro. Superficie: 783.562 km². Abitanti: 71.517.000. Clima: a nord mite e piovoso, a sud-ovest mediterraneo, all'interno continentale. Forma di governo: repubblica parlamentare. Lingua ufficiale: turco, parlata dal 95% della popolazione. Il restante 5% si divide tra curdo, arabo, armeno, greco. Fuso orario: 2 ore avanti rispetto all'orario del meridiano di Greenwich, 1 ora avanti rispetto all'Italia. Documenti: carta d'identità. Moneta: nuova lira turca. Una nuova lira turca uguale 0,49 euro. Religione: 98% della popolazione è musulmana, il 68% dei quali è di rito sannita e il 30% di rito sciita. Il restante 2% comprende piccoli gruppi di comunità di ebrei sefarditi, greci e armeno-ortodossi, cattolici di rito bizantino e armeni protestanti. Prefisso internazionale più 90. Cose da turchi. Quante volte l'ho sentito dire, quante volte l'ho detto. Mi sono venuti subito in mente, in un gioco d'associazione, tutti i luoghi comuni sulla Turchia. Fumare o bestemmiare come un turco, mammali turchi, parlo turco? Insomma, è bastato quel titolo, Cose da turchi, e sono partita per il mio viaggio. L'ho acquistato d'impulso, anche se non sapevo esattamente di cosa si trattasse, se di un romanzo, di una guida o di un saggio. Non conoscevo nemmeno l'autrice, Marta Ottaviani. Ho letto la quarta di copertina e ho provato subito della simpatia per lei. Una ragazza milanese che a un certo punto decide di andarsene a Istanbul per fare la giornalista. Compagna di viaggio ideale, penso, quando decido di dedicare una puntata alla Turchia. Per Natale so dal suo editore che è in Italia e così la chiamo per fissare un incontro. La sua risposta mi sorprende. Resto in Italia il minimo sindacale, perché infatti settimana ti volevo chiedere se ci possiamo risentire settimana prossima quando sarò a Istanbul nel mio ufficio davanti al Bosforo, così rispondo a tutte le domande che vuoi. Quel minimo sindacale me la rende ancora più simpatica. Le chiedo poi a cosa si riferisce e mi confessa che Milano dopo un po' la stressa. Le succede ogni volta che torna. Dopo pochi giorni non vede l'ora di ripartire per Istanbul perché là è più tranquilla. L'intervista si può comunque fare. La tecnologia ci viene in soccorso con Skype. Possiamo sentirci come se fossimo una di fronte all'altra, pur essendo a chilometri e chilometri di distanza. Computer davanti a me, sono pronta a collegarmi con Marta Ottaviani, che si trova nel suo ufficio con le finestre che danno sul Bosforo, l'insenatura d'acqua che divide Asia ed Europa, Occidente ed Oriente. Penso a quello che ho letto nel suo libro, che per la gente di Istanbul il Bosforo è la voce dell'antica Costantinopoli, dove si va a camminare, pescare, amare e piangere. E al detto popolare che dice che se vai sulle sponde del Bosforo quando sei triste e guardi la corrente, quella prende i tuoi dispiaceri e se li porta via verso il Mar Nero. Perché Istanbul? Dunque, a parte la necessità lavorativa, io direi sicuramente un modo diverso di vedere il mondo, un paese molto interessante, in costante crescita, che ama molto sfidare se stesso e ama molto soprattutto far vedere di che cosa può essere capace. Una voglia di vivere, uno stimolo che in Turchia sono palpabili non appena si esce dall'aeroporto. E appena me l'immagino che esce per la prima volta dall'aeroporto, mi rivedo nel mio viaggio dell'estate scorsa. La mia prima sensazione era stata di sospensione, di sogno, ma allo stesso tempo di appartenenza. Le reminiscenze scolastiche su Costantinopoli e Bisanzio, e poi l'Orient Express che collegava Parigi a questa magnifica città. Sensazione che non mi ha mai abbandonata per tutto il tempo che ho camminato per quelle strade. E poi i turchi. Incredibile quanti sono e come sono. Ma allora, la prima volta che io sono arrivata a Istanbul, la prima cosa che ho percepito, passatemi questa espressione, è, come dire, una percezione diversa della massa umana. Nel senso che Istanbul è una città molto caotica ed è una città dove ci sono tante persone, così tante che, insomma, chi viene da una città italiana non è abituato. Te ne rendi conto dal traffico, sicuramente te ne rendi conto dalle persone sui viali pedonali e banalmente te ne rendi conto subito all'uscita dell'aeroporto. Quindi sicuramente, ecco, la mia prima impressione era stata che almeno dalla concentrazione di persone sui marciapiedi difficilmente avrei potuto sentirmi sola, no, in qualche modo. Poi invece chiaramente questa impressione è stata confermata dal fatto che i turchi sono un popolo molto caloroso ed accogliente. Però ecco, diciamo sì, la prima cosa che mi ricordo è stato pensare: mamma mia, ma quanta gente che c'è qua. Costantinopoli, Bisanzio, Istanbul, tre nomi per una stessa città che ha 25 secoli di storia alle spalle. Una stessa città che però ha 100 volti, non solo perché è a metà tra Asia ed Europa, tra Oriente ed Occidente, ma perché, come dice Marta Ottaviani, che ci sta accompagnando in questo viaggio in Turchia, è una megalopoli che assume in qualche modo la forma di chi la vive in quel momento. Sempre però stando attenti ai pregiudizi e ai luoghi comuni. Ogni tanto si pensa ai turchi più o meno come se fossero Alibaba e i 40 ladroni. Ecco, in realtà è vero solo fino a un certo punto. Un primo luogo comune da sfatare, per esempio, è quello sui taxisti. I taxisti, soprattutto quelli che si trovano all'aeroporto, sono molto controllati e raramente tendono a fregare, usando un termine molto diretto, i propri clienti. Certo, soprattutto ecco, i turisti tendono magari a essere un attimino più furbacchioni quando si tratta di gente che va nei quartieri alti della città o nei quartieri dove ci sono gli alberghi di affari, perché si presuppone siano più facoltosi. Però diciamo che mediamente il taxista turco, pur non parlando spesso una parola d'inglese, sono persone molto educate e molto corrette. Un'altra cosa importante da sapere è che a Istanbul i taxi non costano sicuramente come nella maggior parte delle città italiane e soprattutto i mezzi pubblici di trasporto sono molto efficienti e funzionali. Quindi quando si arriva nella città può essere un'opzione molto interessante per spostarsi. Il mio hotel si trova dietro la moschea blu di Sultan Ahmed. E il blu non è stato di certo l'unico colore che mi ha seguito fino al centro della città. Istanbul è una città molto colorata, è colorata nei colori degli abiti indossati dalle persone, persino appunto nei colori del velo islamico, no? Che è tanto vituperato da una parte d'Europa e anche dalla parte più laica di Turchia. È una città che ama molto i colori caldi, ama molto i fucsi, ama molto i rossi, i gialli, gli arancio, le ocre, e lo si può ben vedere nelle bancarelle di spezie, che molto spesso sono veramente delle esplosioni di colori fenomenali. Ma è una città che anche per quanto riguarda soprattutto i colori della tradizione religiosa usa i freddi. Lo si nota ad esempio, anzitutto il colore sacro dell'Islam è il verde, ma poi lo si nota soprattutto anche nella decorazione di alcune moschee, tipo la moschea blu di Sultanahmet, che è uno dei capolavori dell'arte ottomana. All'interno è tutto un proliferare, un affresco meraviglioso di ceramiche, dove i verdi si accostano agli azzurri e ai grigi. Quindi, insomma, diciamo che è una città che rimane fondamentalmente, come dire, divisa dal punto di vista cromatico: colori caldi per la vita di tutti i giorni e colori tendenzialmente freddi per quanto riguarda la spiritualità. Ovviamente i colori caldi si esprimono anche nel cibo. Molto spesso le pietanze principali della cucina turca vengono accompagnate da questi risi al pomodoro molto colorati e a queste verdure che vengono anzi presentate nel piatto sempre in maniera molto scenografica, soprattutto i pomodori. Il cibo è una continua scoperta da queste parti. La sintesi che nasce dall'incontro della cucina asiatica con quella mediterranea ha proprio in Turchia il suo momento più alto. Verdure ottime e la carne ha un sapore irripetibile. Si possono mangiare certi spiedini di pollo che nascondono quasi sicuramente degli ingredienti segreti. Chissà cosa ci mettono. I turchi mangiano a tutte le ore, a differenza di noi italiani. La cucina turca, io voglio sfatare questo mito dolorosamente anche, è tutto fuorché una cucina dietetica, nel senso che usa ingredienti molto naturali, c'è un grandissimo uso delle verdure, per esempio, però è una cucina molto condita, non solo di spezie, ma anche di olio e soprattutto di burro, il che ogni tanto può portarla a può risultare poco digeribile. Il famoso kebab, non il doner kebab, ma la carne arrosto, quindi insomma gli spiedini fatti sulla griglia, molto spesso vengono impreziositi con spezie e soprattutto vengono cucinati anche con del grasso di montone, il che li rende appunto molto saporiti sicuramente, ma ecco, poco adatti a chi vuole fare una dieta contro il colesterolo. Ogni esperienza ha il suo prezzo da pagare, ma per certi sapori vale la pena rischiare. Come quelli che si trovano al porto di Eminönü, quando si torna dalla gita sul Bosforo, e che si concretizzano con un semplice panino col pesce. Viene venduto su certi barconi molto scenografici, dove grigliano tutto il giorno delle specie di sarde che poi mettono con della verdura in un trancio di pane. E allora, afiyet olsun, buon appetito! Sono davanti al mio computer, connessa con Marta Ottaviani, che è nel suo ufficio sul Bosforo, a Istanbul. Mi sta accompagnando in una visita guidata per questa città. Certo, avere il punto di vista di chi ci abita e ne ha scritto dei libri è decisamente diverso. Mentre mi parla mi sto bevendo un tè. Niente a che vedere col tè che si beve in Turchia e che lì si chiama chai. Vi capiterà in Turchia, anzi sarà una delle prime cose che vedrete, di vedere dei piccoli bicchierini con una forma molto aggraziata e una bevanda ambrata dentro. Ecco, quello è il celebre tè turco della provincia di Trabzon, sul Mar Nero. Celebre non forse per noi, e tra poco vi vado subito a spiegare il perché, ma sicuramente per i turchi, tanto che è diventata una vera e propria bevanda nazionale, soppiantando addirittura i consumi del più celebre caffè turco, più celebre all'estero. Il tè turco è poco conosciuto fuori dai confini nazionali, pensate, perché se ne fa un uso così preponderante interno che purtroppo non c'è abbastanza produzione per poterlo esportare, quindi i turchi si tengono questa delizia solo per loro e chi se lo vuole portare a casa deve andare in Turchia a comprarselo e poi, badate bene, comprarsi anche la teiera in cui va fatto, perché il tè turco ha una modalità di produzione piuttosto complicata e anche laboriosa, ma il risultato finale è assolutamente eccellente ed è una bevanda ambrata con un retrogusto amaro molto dissetante. In Turchia questo bicchierino dalle forme aggraziate, come dice Marta, è immancabile dopo pranzo, dopo cena e anche nelle pause del pomeriggio. Lo si trova ovunque con due zollette di zucchero. Due, non una di più, non una di meno. Due. pare che il migliore si possa comperare al Gran Bazar, dove una volta entrati bisogna contrattare qualunque prezzo. È vero che con i venditori del Gran Bazar bisogna contrattare fino alla morte, che non scenderanno mai al di sotto di un certo prezzo, perché è anche una questione di veri e propri cartelli con gli altri esercenti. Però ecco, se qualcuno ha intenzione di spendere una cifra ingente e vede una collana di diamanti e zaffiri che lo fa impazzire ma teme sia falsa, i negozianti del Gran Bazar sono tra i più controllati del paese e soprattutto si controllano molto tra di loro, perché noi sappiamo che il Gran Bazar è una vera e propria istituzione, un mercato che sta in piedi da oltre 500 anni e ci tengono molto a conservare il loro buon nome. Proprio per questo i negozianti del Gran Bazar hanno fondato una cooperativa che in una qualche maniera si autoregola, tenendo pulito per prima cosa il Gran Bazar e soprattutto controllandosi a vicenda in modo tale che, insomma, i turisti non ricevano delle fregature. Un altro dato molto interessante è che il Gran Bazar è uno dei posti più sicuri d'Europa, perché all'interno ci sono molti agenti di polizia, sia in divisa sia in borghese, proprio per garantire la sicurezza dei turisti e dei clienti, soprattutto di chi spende, insomma, cifre abbastanza ingenti. Nei vicoli del Gran Bazar sei circondato dall'energia di questa città. I clienti che acquistano, i venditori che cercano di attirare l'attenzione, i colori dei banchi e soprattutto i profumi che invadono l'aria e ti seguono a ogni passo. Per quanto riguarda i profumi, Istanbul è una città che cambia odore ogni 10 metri. Devo dire che l'odore che si sente più frequentemente è l'odore di cibo. Bisogna considerare infatti che in Turchia non ci sono orari per mangiare stretti come quelli che ci sono in Italia. Può capitare tranquillamente di andare in un ristorante alle 4 e vedere gente che sta pranzando. L'immediata conseguenza è che l'odore del cibo è predominante, ma c'è anche l'odore dei profumi delle persone. I turchi, e qui vorrei magari sfatare un luogo comune che, insomma, quando lo sento mi fa anche abbastanza dispiacere, tendono ad essere persone che hanno una grandissima cura di se stessi, molto pulite anche, e che forse anche per una tradizione che deriva dalla loro matrice medio orientale usano il profumo in quantità piuttosto ingenti, soprattutto le donne. Quindi se magari negli uomini, quando passa un signore turco, possiamo sentire quest'acqua di colonia al limone o al tabacco, che sono, come dire, profumi molto maschili, molto pungenti ma anche armoniosi, le donne amano soprattutto essenze floreali molto dolci. Le donne in Turchia sono un continente vario ed affascinante, come lo definisce Marta, e sono come il paese che abitano, senza vie di mezzo. Le donne turche sono assolutamente mitiche. Chiaro, dipende molto dalla fascia sociale a cui appartengono, ma se possiamo trovare un comune denominatore, sono donne estremamente curate, che amano piacersi e amano anche piacere. Non importa se portino il velo o meno, voi potrete vedere camminando per Istanbul signore che portano il velo, vestite con i colori all'ultima moda e magari anche sotto il velo, non il teshetur, quindi il soprabito lungo fino ai piedi, ma pantaloni attillati e tacchi a spillo, e donne invece che non portano il velo e che seguono le ultime tendenze della moda. Le turche hanno due grandi manie. La prima è il trucco. Molto difficilmente troverete una donna turca che non sia perfettamente truccata e che non abbia le unghie fresche di manicure. E in secondo luogo, questo soprattutto per le più abbienti, il botox. E non sto scherzando, in Turchia il botox ha, come dire, prezzi probabilmente molto più politici rispetto all'Italia. Sta di fatto che le turche, soprattutto di un determinato ceto sociale, già dalla trentina mi è stato detto che utilizzano il botox, un qualche ritocchino, per apparire sempre giovani e belle. Devo dire che i risultati sono assolutamente eccellenti. Questo fa anche magari ironicamente sorgere qualche dubbio su quanto ne usino. Turchia. Ne stiamo parlando con Marta Ottaviani, che prosegue il suo viaggio con noi. Dopo aver sfatato qualche luogo comune sui turchi, ci ha presentato le donne turche come donne belle, curate ed estremamente femminili. Nel quartiere Beyoğlu, dove la sera i localini si riempiono non solo di turisti, se ne possono vedere tantissime. E vederle ballare con il movimento dei loro corpi, delle loro mani e l'intensità dei loro sguardi è un vero spettacolo. A questo punto chiedo a Marta di parlarmi un po' della musica turca. Per quanto riguarda la musica, bisogna tenere presente una cosa, che i turchi non hanno vie di mezzo e quindi o ascoltano musiche molto malinconiche derivanti dalla tradizione ottomana o da quella più turca con i loro strumenti tradizionali, e queste ogni tanto, diciamo che se non si è di particolare buon umore quella mattina, possono essere un po' pesanti, ma è una tradizione musicale con una sua peculiarità e passato artistico, e di cui quindi mi permetto di consigliare la conoscenza. L'altra, e questa è molto meno positiva, i turchi hanno veramente una mania terribile per la musica da discoteca, quindi in assenza appunto di questa musica derivante dalla tradizione autoctona, è molto facile entrare in un negozio e sentire musica da discoteca palla, soprattutto nei negozi per i più giovani e nelle profumerie. Questo ogni tanto può essere un po' fastidioso. Questa è la bellissima e straziante voce di Aynur Karadoğan, presa da Crossing the Bridge, il film documentario del giovane regista turco-tedesco Fatih Akin, lo stesso che nel 2004 ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino con La sposa turca. Non ci sono dubbi. Bisogna essere preparati alle melodie malinconiche. In mezzo alla tradizione musicale turca e curda, come nel caso di Aynur, però c'è anche il rock, la musica di strada, il rap, l'hip hop, tutto nel solito mescolarsi di culture e popoli che da queste parti, da migliaia d'anni, si avvicendano. Anche se, come scrive il premio Nobel turco per la letteratura Orhan Pamuk, i cambiamenti di superficie non significano niente. A conoscerla davvero, questa è la Costantinopoli di sempre. Il suo fascino è intatto. Confucio dice: quando arrivi in un luogo e vuoi comprenderlo, ascolta la musica che vi si suona. In Turchia vale anche per la lingua, dal momento che ai turchi piace molto parlare, e tra i suoni della città ci sono certamente quelli delle voci dei suoi abitanti. Invece i turchi sono dei gran chiacchieroni, sono un popolo molto aperto e caloroso. Capita molto spesso sentirli urlare come se stessero litigando. Ecco, in quel caso non vi spaventate, perché non è detto che stiano litigando, stanno semplicemente discutendo in maniera un po' animata, ma per la, come dire, struttura della lingua turca, ecco, molto spesso anche una semplice discussione risulta un litigio, anche se poi ad osservare i contenuti, per chi li può capire, non c'è nulla da preoccuparsi. E chi la può capire? È turco. In realtà un passo avanti è stato fatto con la riforma di Mustafa Kemal Atatürk, che negli anni 30 ha cercato di occidentalizzare il paese anche sotto il profilo linguistico, sostituendo i caratteri arabi con l'alfabeto latino. E così, anche se per molti rimane una lingua incomprensibile, è diventata almeno leggibile. Atatürk, il padre della patria. Non c'è luogo pubblico in cui non vi sia una sua immagine. Tra le prime cose che si vedono, no, quando si esce dall'aeroporto, la prima è sicuramente la bandiera turca, anche perché è impossibile in qualsiasi angolo di Istanbul fotograferete non far rientrare anche la bandiera nazionale, che è un simbolo non solo appunto di una nazione, ma anche di un'identità propria molto precisa. E la seconda, a parte i bicchierini con il tè, è l'immagine di Mustafa Kemal Atatürk, colui che fondò l'impero, la nazione moderna alla fine dell'impero ottomano, e che anche oggi, ancora oggi, a quasi 80 anni dalla sua scomparsa, è considerato il padre di tutti i turchi e una figura a cui riferirsi costantemente. Ogni tanto forse un po' troppo, soprattutto nelle nuove generazioni, c'è, non dico un'insofferenza, ma il desiderio di trovare anche modelli politici un po' diversi da Atatürk. Basti però pensare, per farvi capire quanto sia vivo il culto di questo grandissimo statista, che tutti gli anni all'anniversario della sua morte, che è in novembre alle 9:05, la nazione si ferma interamente per un minuto per ricordare appunto il momento del trapasso del grande statista. Ed è interessante perché in quel momento, che se non mi ricordo male sono le 9:05, i programmi interrompono, le televisioni e le radio interrompono la loro programmazione, la gente smette di lavorare, si mette sull'attenti per un minuto e poi ritorna a appunto vivere la sua quotidianità. È arrivato il momento di lasciare anche Marta alla sua quotidianità. Dopo avermi fatto rivivere l'esperienza della Turchia, non resta che salutarla, sperando di poterla incontrare di persona per bere un tè insieme, anzi un chai, con vista sul Bosforo. Interrompo la connessione. Il suo nome scompare dal mio monitor e mi ritrovo a casa, in Italia. Per congedarmi da quel viaggio, però, mi manca ancora qualcosa. Un passo di Costantinopoli di Edmondo De Amicis può essere d'aiuto. È una bellezza universale e sovrana, dinanzi alla quale il poeta e l'archeologo, l'ambasciatore e il negoziante, la principessa e il marinaio, il figlio del settentrione e il figlio del mezzogiorno, tutti hanno emesso un grido di meraviglia. È il più bel luogo della terra, a giudizio di tutta la terra. Marta Ottaviani è in libreria con Mille e una Turchia, edito da Mursia. Compagni di viaggio. Testi di Morena Rossi, voce di Adele Pellegatta.